Attenzione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Radioazione. Radioazione.org. Radioazione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Seconds to hell, god damn you. Le provocazioni e la musica. invece l'appuntamento con le letture è lunedì, ma lunedì non ci sarà lettura, ci sarà ancora una volta controinformazione, sballeranno ancora per una settimana la programmazione per quanto riguarda le dirette. Ricordiamo gli indirizzi utili per radiazione, radiazione@dc.org per chi vuole mandare materiale da poter pubblicare sul sito di radiazione, chi vuole mandare consigli, chi vuole mandare consigli sui libri, non sul sito, non abbiamo bisogno, non si hanno bisogno di consigli, quello lo decido io, almeno per radiazione italiana, e radiazione cronica lo decide chi sta a fianco a me ora. Invece per le letture del lunedì su radiazione, dove leggiamo libri di narrativa, racconti, non testi anarchici, ma con bene o male delle piccole affinità, diciamo, non proprio affinità, però con delle tematiche che possono interessare. Potete là mandare dei consigli sui libri da leggere per il futuro. Stiamo leggendo Nessuno ci salva di Sergio Spiasecki, il prossimo speriamo che arriva come consiglio. Allora, questo era per quanto riguarda la mail. Invece il sito di radiazione è radiazione.org, dove potete leggere quotidianamente la controinformazione aggiornata, dove potete riascoltare tutte le dirette d'azione attraverso la pagina dei podcast e dove potete scaricarvi un bel po' di materiale attraverso la pagina download, tutto il materiale che i vari compagni ci spediscono alla mail e lo fanno girare gratuitamente, come bene che sia, come dovrebbe essere, come dovrebbe essere. Non ci dovrebbero essere dei prezzi sulle idee, specialmente sulla musica. Là ci trovate comunque opuscoli, libri, manifesti, come dicevo anche musica, insomma un po' di materiale l'ho trovato. La radio trasmette sul server anarchia.net, che io continuo a chiamare anarchia.net. Messo a disposizione dal compagno di The Anarchist Library, che salutiamo e ringraziamo sempre. Ora abbiamo iniziato col film, ma io mi sento una merda. Continuiamo ora, prima di passare alla prima notizia di controinformazione di oggi, ci ascoltiamo un brano, loro sono gli Snog con il brano Rewise Yuppie, e poi dopo si torna qui e si parte subito con la prima notizia di controinformazione. Rewise the upbeat and a soul. Amélie Fallon. Oggi fanno più di 10 mesi che siamo in carcere. Nelle ultime settimane che sono passate ci hanno dato 2 sentenze, federale e comune. Il 1 novembre il giudice Manuel Munoz Bastida dell'ottavo tribunale federale del Reclusion Sur ha emesso la sentenza di 7 anni e mezzo di carcere con l'accusa di incendio ad un edificio pubblico con la gente dentro. Questo per il danno che ha subito la Segreteria di Comunicazione e Trasporti del Messico. La gente dentro sono i 2 maiali federali incaricati della sicurezza del luogo. Poi, il 7 novembre, abbiamo ricevuto la 2ª sentenza per le accuse del Tribunale Comune di danni alla proprietà privata in gruppo e attacco alla quiete pubblica. Queste accuse riguardano l'attacco che si è verificato presso la concessionaria auto della Nissan, trovandosi essa all'angolo della STC dove bruciamo le auto. Il giudice Margherita Bastida Negrette del Tribunale di Diritto Comune, 18° del Reclusorio Oriente, ci ha condannati a 2 anni e 7 mesi di carcere, unendo i 2 reati in uno. Quindi i danni materiali sono diventati risarcimento dei danni e condannandoci all'attacco alla quiete pubblica con risarcimento di danni di 108.000 pesos. Secondo la legge, per tutte le sentenze inferiori a 5 anni, i non pregiudicati hanno diritto ad alcuni benefici. Nel nostro caso, se paghiamo una multa di 43.000 pesos, ci rilasciano immediatamente, oppure possiamo pagare un minimo di 10.000 pesos a testa e firmare ogni mese al tribunale durante i 2 anni e 7 mesi. In entrambi i processi andremo in appello, perché il MP si è appellato alla sentenza del Tribunale Comune e noi alla sentenza federale. Entro 5 mesi dovrebbero arrivare le decisioni. In realtà è la sentenza federale che ci tiene qui detenuti. Per essere liberi, la sentenza federale dovrà essere inferiore a 5 anni. Quindi vedremo nei prossimi mesi se c'è la possibilità di lasciare questo posto. Siamo state informate della pubblicazione di un articolo sul giornale La Presse dell'autore Philippe Tresser-Lessard, uno dei giornali più letti in Quebec. Siamo arrabbiate per la pubblicazione di questo articolo che parla del nostro caso, citando in parte le lettere pubbliche e ciò che il nostro avvocato ha detto al giornalista. Mai abbiamo chiesto ad alcun mezzo di massa la diffusione del caso e nemmeno abbiamo autorizzato il nostro avvocato di comunicare le nostre informazioni a qualsiasi giornalista. Se abbiamo qualcosa da comunicare, preferiamo fare noi stesse. I mass media sono nemici allo stesso modo di come lo è la polizia, i più potenti strumenti di controllo sociale che esistono fino ad oggi. Detto questo, quel coglione di Philippe Lessard che la finisca di molestare le nostre famiglie e anche che gli sia chiaro che non abbiamo bisogno dei suoi articoli per discutere della nostra situazione. Allora, continuiamo così, con la forza nei cuori e cagando sulla giustizia e lo Stato. Non ci aspettiamo nulla dalla giustizia, anche se abbiamo tanta voglia di uscire. Forza al nostro complice Carlo Lopez Marin in Oriente, al compagno Luis Fernando al Sud, ad Abraham e Fernando al Nord. Inoltre, un saluto a Mario Gonzalez, ora libero, e un fortissimo abbraccio a Felicity, Tripa e La Strega. Fuoco alla civilizzazione, guerra alla società, fino alla libertà e oltre. Amélie e Fallon in Santa Marta. Questo era il testo che ci fanno avere le 2 compagne dopo le 2 sentenze che ci sono state circa 1 mese fa nei loro confronti di Carlos Lopez e Chivo Marin. Anche sentenze pesanti per quanto riguarda... Molto pesanti. Anche perché poi alla fine non si sono limitati solo al tribunale, quello comune. Penale. ma anche quello comune, quello civile, che poi dove, cioè quello che in Italia è civile, con dove invece di anni di carcere ti fai, cioè ti richiedono il risarcimento in denaro e dei danni. Insomma, allora, questa era la prima notizia per oggi per quanto riguarda la controinformazione. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono gli Xmark The Bad Walk, il brano è The Shot e poi dopo si torna qui e ancora controinformazione. Xmax The Petwalk, il brano era The Shot. Ora si ripassa ad una nuova notizia, una più carina, anche se a dire il vero io poco ci ho capito, però arriva da Bristol, è una rivendicazione di un attacco a delle auto che sono state incendiate, il ricordo di Remy Fries, non lo so, Fries. E in solidarietà con Nikos Romanos, che è in sciopero della fame. Leggiamo il testo rivendicativo. La polizia francese ha ucciso Remy Fries e nello stesso tempo cerca di schiacciare una combattiva occupazione del bosco di Sivens, fatta per impedire la costruzione di una diga. Abbiamo incendiato un veicolo di servizio della multinazionale francese GDF, che sta lavorando nella costruzione del nuovo reattore nucleare, non molto lontano da qui, a Hinkley Point. È implicata in progetti nucleari in vari paesi, impone dighe in territori indigeni irrecuperabili in Amazzonia con l'appoggio dell'esercito brasiliano, offre servizi di gestione di postazioni di polizia in questi luoghi, mantiene installazioni nelle isole di isole Shetland in nome di uno dei più grandi terminali di petrolio e gas in Europa, gestisce diverse prigioni francesi e in generale sta progettando tecnologie per le stesse banche ed entità commerciali di sempre, cercando di mascherare il capitalismo industriale con lo sviluppo sostenibile. Insomma, non gli manca niente alla GDF. L'azione è stata realizzata nella zona di Longeston, dove abbiamo bruciato pure un audace 4x4, due auto sportive di lusso, un veicolo della OCS, che è considerata una delle principali imprese di sicurezza privata del Regno Unito, offrendo servizi di personale di guardia, pattugli, installazioni di videocamere di sorveglianza e monitoraggio, eccetera eccetera. In Francia l'occupazione della ZAD, zona da difendere, non è stata soggiogata dalla progettata catastrofe ecologica che porta alla distruzione di habitat importanti per irrigare colture di mais transgenico. L'anarchia si frappone al cammino degli industrialisti. Un'altra distruzione è possibile. La divisione tra classi si allargano, le devastazioni dell'ambiente si succedono una dopo l'altra, il significato delle nostre vite si erode e loro pensano che correremo tutti per la loro fantastica terra di comodità e ci annebberemo la vista per ottenere benefici sociali. I livelli di miseria, vigilanza e contenimento stanno aumentando, sono state tracciate delle linee, noi sappiamo dove posizionarci. C'è tuttavia qualcuno che crede che la polizia tenga questa città completamente sotto il controllo? Loro possono rinchiudere Race Goyan Wilson per l'incendio di un commissariato di polizia a Nottingham durante gli scontri del 2011, però non possono uccidere le nostre memorie. Per quanto lo Stato reprima le manifestazioni fastidiose degli studenti, degli anti-autoritari e dei marginali, quelli che massacra senza pietà a Londra, Parigi o Ferguson stanno riattizzando il fuoco di agosto. Nell'anno che viene Bristol ostenterà il premio di capitale verde europea, come se qualcuno potesse credere che ci fosse la minima intenzione di fronteggiare il carnaio provocato dall'ideologia capitalista della crescita economica. Ovviamente il discorso ecologico ha doppio significato, la guerra è pace, le città sono verdi, eccetera. Copre la gioia dei padroni quando i titoli attraggono extra investimenti alla crescente economia verde e ai suoi annessi, mentre la crisi della biodiversità avanza incontrollata. È uno scherzo di quelli che si pagano caro, lo stesso di quando Nantes aveva vinto il premio per il 2013, dove un'altra ZAD sta facendo crescere una dura lotta contro uno stesso sviluppo aeroportuale verde con tutto quello che ne consegue. Allo stesso modo non ci perdiamo dietro la farsa greenwashing e gli interessi del capitale dietro di questa, no alle cerimonie di autocompiacimento, ma nei luoghi in cui costoro fanno il loro lavoro quotidiano e quindi la strada dove i valori e le norme di questa civiltà sono riprodotti. Niente affatto per caso, abbiamo dato fuoco alla notte perché stare in piedi da una parte e confidando negli esperti non sarà mai abbastanza per affrontare la nostra situazione miserabile all'interno di un impero vacillante biocida. contro la società di classe e lo sviluppo industriale, soprattutto quelli di dipinti in verde, vittoria alla ZAD di Tessette e alla ZAD Notre Dame de Land, vittoria allo sciopero della fame e a rotazione nel sistema delle prigioni greche in supporto al nostro compagno confederato Fai Nikos Romanos e a tutti i prigionieri in guerra contro il carcere. Il testo rivendicativo è firmato da FAI, Federazione Anarchica Informale, Torches in the Night, Earth Liberation Front. E questo era il testo, ma io vi invito ad andarlo a rileggere. Sì, io invito perché ad io a rileggere in lingua alla prima lettura, no, è uguale, il testo è tradotto bene dai compagni di Croce Nera Anarchica, è stata controllata pure, è stata vista già e rivista la traduzione, meglio di così non poteva essere tradotto. Penso che sia meglio la traduzione che l'originale, sì, forse si capisce qualcosa in più dalla traduzione in italiano che dall'originale. Insomma, però, se non avete capito una sega, potete andarvelo a leggere sul sito di Radiazione, sotto lo trovate, Bristol è uno dei primi articoli. Allora, con questo ci fermiamo qua per un attimo, ci ascoltiamo un altro brano, Psycho Bombs con il brano Hate, e poi dopo si torna qui e ancora controinformazione. Adesso passiamo in Cile, prima con una notizia che arriva da Valparaíso su un attacco incendiario a una base delle telecomunicazioni della Marina. Attorno alle 4 di notte del 5 novembre del 2014, un gruppo di anonimi incappucciati è giunto a Colorado Hill a Valparaíso ed ha attaccato una base delle telecomunicazioni dell'esercito. Gli incappucciati hanno lanciato molotov e pietre contro l'installazione militare. L'attacco ha danneggiato l'installazione rompendo alcune finestre, che hanno ferito un funzionario della Marina, che è stato portato all'ospedale navale. In seguito all'attacco, una guardia navale ha aperto il fuoco contro gli incappucciati che sono fuggiti dall'area. Finora non risulta che ci siano feriti. Il subcentro delle telecomunicazioni dell'Armada fornisce informazioni meteorologiche e serve da ripetitore per la comunicazione navale. Il personale del laboratorio della scientifica, la Bocar, è arrivato nell'area per investigare quanto accaduto. Nel mentre, ufficiali di alto grado balbettavano condanne dell'accaduto. Fino ad ora nessun gruppo ha rivendicato l'attacco. Questo lo diciamo, l'abbiamo tanto pubblicata perché giusto i compagni di Croce Nera l'avevano tradotta. Arrivano altre mail riguardo a attacchi, in particolare mi è arrivato un altro attacco proprio in Cile che senza firma, non c'è nessuna rivendicazione, senza niente. Tanto può essere fatta da compagni e tanto può essere fatta da chiunque, quindi io preferisco normalmente non pubblicare le azioni che vengono senza firma, senza rivendicazione. Le azioni anonime, quelle che so di tutte, non so di radiazione, non vengono pubblicate sulla radiazione, perché comunque, cioè, penso che si scade in riportare le notizie quasi a livello giornalistico. Sì, cioè, siamo a riportare pure i giornalisti sgozzati dall'ISIS, perché comunque ci fa piacere pure che il giornalista venga sgozzato. Certo, pure dell'eventuale attacco alle Twin Towers. Perché ovviamente tutto questo ci fa piacere sentire e leggere, però ovviamente io penso questo, che ci dovrebbe essere una motivazione ben precisa dietro, affine alle nostre idee, perché io non posso sostenere un attacco fatto per altri motivi o ad un altro gruppo che non è affine ai miei, che ha altri scopi ovviamente con questo attacco. Quindi vabbè, non è caso, perché non penso che ci ascoltano i compagni che di solito ci mandano questi attacchi, no, perché meno male, cioè, arrivano tutti quanti dalla stessa dallo stesso territorio, questi attacchi senza firma. Non se la prendessero a male se non vengono tradotti e pubblicati su radiazione, ma se non c'è una firma, se non c'è la rivendicazione, qua non si pubblica niente. Non è una presa di posizione per il fatto dell'anonimato, non, no, c'entra assolutamente, non c'entra un cazzo, c'entra il fatto che non si vuole pubblicare le azioni che viene fatta da qualunque persona o gruppo o non si sa perché entità. Okay. Sì. Allora, questa era per quanto riguarda la prima notizia. La seconda, la seconda notizia, rimaniamo sempre in Cile, la notizia su Victor Montoya, che è stato assolto anche nel secondo processo. Infatti il 20 novembre è stata emessa la sentenza per il secondo processo che la procura ha realizzato contro Victor Montoya. Il compagno è stato assolto anche in questo nuovo processo, nonostante la procura ha provato in ogni modo a far condannare Victor in base alla legge antiterrorista. Dai testimoni che non furono ammessi dal giudice nel primo processo fino alla gita turistica alla caserma di Vizcachas. Ne avevamo parlato proprio la settimana scorsa di questa gita turistica e i pubblici ministeri hanno invitato tutto il tribunale, quindi pure la difesa, pure Victor, i giudici, andare a fare questo giro, gita turistico nei luoghi, nei luoghi dell'attacco. A me mi ricorda da Deco, ragazzi, a Blu Notte, la Luca Lucci aveva i cartonati dietro Lucarelli, queste sono andate surreali, storie di fantasmi. Questa è la strada dove c'è stata l'apparizione, questa, da quella finestra si è affacciato il fantasma di così hanno fatto i pubblici ministeri in Cile, portando a fare sta visita gita turistica alla caserma di Vizcachas, che fu attaccata due anni fa, se ricordo bene. E poi dopo, approfittando che là c'era la strada da dove poi sarebbero scappati gli attentatori, si sono fatti una passeggiata. Nel frattempo fuori a tribunale c'è stato anche un piccolo presidio solidale con Victor. Questo era per quanto riguarda le notizie dal Cile. Ora ci ascoltiamo un altro brano. Loro sono i Got Cycles, Singhiozza. Forse mi è venuto il Singhiozza. Got Cycles. Il nome del brano non ve lo dico perché è ingarbugliato, lo diranno loro. Allora, The God Cycles, e poi dopo ti torna qui e controinformazione ancora. E allora, lo diciamo. Diciamolo. Si era fatta una cazzata, ora si era lasciato il microfono spento. Ora mi si ritocca di leggere le riflessioni numero 7 da capo, tutto da capo. Si era fatta pure una piccola discussione, poi ce ne siamo accorti che c'era il microfono. Lo diciamo, senza vergogna. Spento. Senza vergogna. Allora, leggiamo queste riflessioni di radiazione che pubblicate 2 giorni fa. Sì, come ogni volta che vengono pubblicate le riflessioni si scelgono alcuni punti e si cercano di capire il perché si criticano, si discute di 3 punti. Allora, come accade da quando è nato il sito di radiazione, a me viene da ridere perché ora tocca rileggere tutto. Butto giù 2 righe rendendo pubblici ad altri compagni i miei punti di vista su alcuni argomenti. Ricordo a chi non lo sapesse ancora che essendo questo sito la continuazione di un giornale affinità periodico insurrezionalista che ha visto la sua fine nel 2007, periodicamente pubblicherò i miei pensieri a modo editoriale. Questo è l'unico mio mezzo per esprimermi con le parole al momento e questo utilizzo. Se i miei pensieri saranno condivisi o meno non è il mio problema. Non me ne sono mai creato alcuno e tantomeno me ne creerò in futuro. Ho sempre apprezzato la critica costruttiva anche se non la condividevo e mi sono sempre fatto più forte quando ad arrivare erano solo offese. A differenza di molti ci rido su. Ora veniamo ai punti di svista. È da qualche mese che su alcuni mezzi di controinformazione anarchica, internet o carta vengono pubblicati i bollettini di guerra riguardanti Kobane. Aggiornamenti, solidarietà al popolo curdo e sguardi pieni di ammirazione verso le IPG e IPG. Intanto, mentre si solidarizza con le immagini di donne con i fucili in mano a chilometri di distanza, un'altra distanza viene aumentata con i compagni anarchici detenuti. Forse perché qualcuno, invece di un fucile, ha sparso e dato fuoco alla benzina. Forse perché qualcun altro al posto del fucile ha impugnato una pistola. O forse ancora si resta affascinati dall'immagine di una donna con il fucile in mano. Ma tra queste, come un flashback, quella che mi torna a scatti e ripetutamente in mente è un'altra. E se il nocciolo di tutto questo è proprio quella distanza? Solidarizzare con un esercito di resistenza a distanza non si rischia nulla ed il buon compitino militante che arricchisce il curriculum viene fatto tra baci e bracci, bandierine e cotillon. Ogni bacio un ferito tra la popolazione a Kobane, ogni abbraccio qualche morto tra la popolazione a Kobane. Intanto qui la coscienza qualcuno ce l'ha, intanto qui però la coscienza qualcuno ce l'ha pulita perché ha solidarizzato con quell'esercito di donne resistenti a distanza. Il problema sorge quando non esiste una distanza di così tanti chilometri e delle migliaia si passa alle centinaia, quando invece di sparare raffica di mitre o di fucili contro l'ISIS viene esploso un colpo alla gamba di un avvelenatore. Eppure sia l'ISIS che un amministratore delegato dell'Ansaldo sono entrambi avvelenatori. Uno inquina le menti con la fede religiosa, l'altro inquina i corpi fisici con il nucleare. E allora fa più rumore una Tokarev in Italia che un MAB proveniente sempre dall'Italia a Kobane? Ancora il flashback. No, non fa più rumore la Tokarev, ma è molto più comodo esaltare i MAB. La soluzione è semplice, non si rischia nulla. Ma volendo tralasciare il fattore rischio, il problema reale resta un altro. Buona parte di questi articoli pubblicati in solidarietà con Kobane sono accompagnati da immagini di donne della EPJ con tanto di fucile imbracciato. Ricordiamo che le EPJ sono quelle che insieme alla EPG non si sono sdegnate di ringraziare le forze armate occidentali per il loro supporto missilistico e lamentandosi che purtroppo questi aiuti sono arrivati tardi, altrimenti non esisterebbe più il problema ISIS a Kobane. L'immagine della donna soldata fa effetto anche sugli anarchici, se poi viene associata al termine resistenza è l'apoteosi. Questa resistenza però è fatta, come dicevo prima, di collaborazione con gli eserciti degli stati occidentali e non solo. Ed oltre ai ringraziamenti non si sono dimenticati di complimentarsi perché i bombardamenti da parte di questi non hanno sgarrato di 1 millimetro l'obiettivo. Una resistenza fatta ad esercito con tanto di piramide gerarchica. Vi freno subito, non mi ricordate Spagna 36 Druti, era altra epoca e altra gente quella. poi vi chiedo aiuto perché veramente non capisco. Non so se è un mio limite o un limite degli altri compagni anarchici. Cosa c'entra un esercito con gli anarchici? Anti-autoritarismo, anti-militarismo, anti-statalismo. Queste non sono mie diarree, ma i pilastri dell'anarchismo. Si tratta delle fondamenta anarchiche che vengono distrutte facendo passare un determinato tipo di informazione e non controinformazione, perché è contro sì, ma solo all'anarchismo. La guerra si fa faccia a faccia con il nemico e non a migliaia di chilometri contro un nemico che conosciamo solo attraverso i media occidentali. Abbiamo poco da solidarizzare in Italia con chi si subisce le angherie dei fondamentalisti islamici. Chi si solidarizza con noi violentati sin dalla nascita dalla Città del Vaticano? Anticlericalismo, un altro punto abbandonato dagli anarchici. Meno male che ci sono i trans a lasciare la vernice rosa contro le chiese. Eh sì, proprio loro che nel paese dove comandare, oltre ai servizi segreti, c'è soprattutto un uomo vestito di bianco che appare in ogni telegiornale ed almeno 5 volte al giorno per ogni canale televisivo, subiscono ancora la Santa Inquisizione e la morale razzista della Chiesa. Purtroppo, come ogni specie umana che è soggetta al razzismo, sono molto suscettibili e così capita che addirittura tra anarchici c'è qualcuno che deve portare le sue giustificazioni in giro per lo stivale parlando di anarco queer e dei problemi che ha un gay, una lesbica o un trans nella società odierna. A me un dubbio viene. Non è che qualcuno si è inventato questa cosa o questa cazzata per scrivere un po' di libri e guadagnarci su qualche soldino? No, perché altrimenti non vedo il motivo per cui un compagno o una compagna debba venirmi a spiegare a voce o con un libro le proprie scelte sessuali. Siamo anarchici, punto. Siamo individui che si muovono, parlano e pensano. Purtroppo agiamo poco e niente. Che motivo c'è di andare a giustificare le proprie scelte sessuali? Se ci relazioniamo tra noi, libertari, ci dobbiamo guardare negli occhi o tra le gambe? Ultimo punto che tocco è riferito a chi, ancora dopo 2 mesi, attacca i compagni che hanno fatto una leggerezza nell'attacco al Subcentro in Cile. Leggerezza che ha provocato il ferimento di 14 civili e questo non bisogna dimenticarlo perché serva da esempio negli attacchi futuri. Bene, anche io non sono d'accordo su coinvolgere i civili nella lotta contro lo Stato. Ovvio è perché non è la popolazione il mio nemico, anche se tra di loro qualcuno lo è, ma lo Stato capitale. A chiunque può capitare di fare una leggerezza, l'importante è che non venga fatta con l'intenzione. Il chiacchiericcio che si continua a fare, specialmente in Cile, da parte di molti compagni che hanno dovuto scrivere pagine e pagine per far sapere alle autorità la loro presa di distanza, è disgustosa e nociva più della repressione in sé. Ora attaccate quei compagni che hanno agito a Subcentro, ieri forse avreste attaccato Severino Di Giovanni. Leggere poi certe prese di distanza da chi si firma gruppo anarchico Sherlock Holmes, beh, che dire. Forse anche un bambino di 5 anni sa che il personaggio a cui fate riferimento è un investigatore e leggere solo quella firma fa più male di leggere di 14 civili colpiti al Subcentro per un attacco anarchico. Per ora ci sono 3 compagni in carcere accusati anche per quell'attacco. Questa è la realtà e la solidarietà rivoluzionaria nei loro confronti dovrebbe essere la priorità. La solidarietà rivoluzionaria nei loro confronti e nei confronti di tanti compagni anarchici detenuti in tutto il mondo. Questa è la priorità, tutto il resto è noia. Radiazione fine novembre 2014. Noi prima abbiamo fatto una lunga chiacchierata che adesso non sapete, ripeteremo. Che ora non ripeteremo perché cioè, è come raccontarcene tra me e te poi alla fine. I punti, gli spunti di vista ci sono per chi... per chi li vuole criticare, chi li condivide, chi ne vuole discutere anche tramite mail di persona con il sottoscritto che ha buttato giù il testo. Allora, facciamo finta che non è capitato niente, cioè nel senso il testo, i punti di vista ci sono, però tutto quello che è capitato prima con il microfono abbassato non è capitato. Andiamo avanti, ci ascoltiamo un brano degli schizzo.com che si intitola Bhagavad Gita. e stavolta il microfono l'abbiamo alzato. Allora, uno schizzo.com, e ora si passa alla controinformazione. Allora, torniamo in Cile sulla notizia per quanto riguarda qua Natalie e Guglielmo, sull'annullamento delle perizie fisiche e psicologiche. Il giorno 11 novembre la Corte Suprema ha annullato i risultati della perizia medica ed ha anche respinto la richiesta di rilevare informazioni psicologiche e psichiatriche alle quali i compagni avevano resistito. Questa scelta giudiziaria sta a significare che le prove ottenute in questi esami non potranno essere utilizzate nel futuro processo. Intanto, approfittando dell'isteria antiterrorismo, è stato riaperto un caso riguardante un attacco al Banco Itaú de Concepción a Santiago. Il giorno 11 maggio 2012 alcuni sconosciuti portarono un ordigno esplosivo all'interno del Banco Itaú de Concepción. Per evitare possibili feriti tra i civili, lasciarono un cartello sulla porta che avvisava la presenza dell'ordigno esplosivo. Il cartello cade subito dopo che andarono via coloro che hanno portato l'esplosivo. Nonostante ciò, l'ordigno esplose senza causare alcun ferito, ma solo danni materiali alla banca. L'azione venne rivendicata dalla cellula illegale Daniel Riquelme Ruiz, Federazione Anarchica Informale Fronte Rivoluzionario Internazionale. Il 7 novembre 2014 i denuncianti e il pubblico ministero hanno deciso di riaprire il caso giudiziario in cui non era stato trovato alcun indiziato. La scusa questa volta è la somiglianza nella costruzione dell'ordigno esplosivo con quelli esplosi al subcentro e a Los Dominicos. Il procuratore si riferisce in particolare all'uso di polvere nera, estintori e timer. Infine, le indagini a Concepción proveranno se Juan, Natalie e Guglielmo sono coinvolti anche per questo attacco esplosivo. E questo era quello di cui avevamo parlato nelle riflessioni dopo le riflessioni. Al microfono spento. Al microfono spento. Era andato questo nuovo, questo attacco che hanno fatto riesumato per avere un motivo in più per far condannare Juan, Natalie e Guillermo per quanto riguarda gli attacchi a subcentro e Los Dominicos. Sul testo pubblicato sulla reazione, sulla dove c'è il nome della cellula illegale Daniel Riquelme Ruiz, ci cliccate sopra, è un link e vi riporta al sito in spagnolo dove c'è la rivendicazione da parte dei compagni di questa azione. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono Yellowfish con il brano You Don't Kill Kite Quit. L'inglese cioè, è da abolire, non è buono né per me perché non lo so parlare e né per gli inglesi perché non imparano altre lingue. You don't kid. E poi dopo si torna qui con un'ultima notizia di controinformazione per oggi. Commands of the breaks. discussion, end of discussion. Evil E can motivate the butt of a Russian. Tracks seamless like a pole on a fence to keep the whack beats out and let the funk commence intense. Kick patterns on a rate and the pace, while my beat controls your actions like a gun in your face. Hardcore rhyme rhythm that a b-boy pace, ear piercing high. This epic bass often tried and derived to assault the crowd with the meters up high, so it comes out loud. Questi erano Elfish con il brano You Don't Quit. Ora si passa alla ultima notizia di controinformazione per quanto riguarda la diretta di oggi. Si rimane sempre a Santiago, in Cile, dove c'è stata l'udienza preparatoria per il processo a Tamara Sol Farias Vergara. Lunedì 24 novembre a Santiago c'è stata l'udienza di preparazione per il processo contro la compagna Tamara Sol, detenuta nel carcere di San Miguel da quasi un anno con l'accusa di tentato omicidio e furto. In questa udienza la difesa e l'accusa hanno presentato le varie prove, testimoni e perizie. Il tribunale ha escluso circa 28 testimoni dell'accusa, la maggior parte sbirri dell'OS9 e funzionari della banca, molti di questi non erano nemmeno testimoni oculari per i fatti contestati a Tamara. Sotto richiesta della difesa, il giudice ha eliminato altri elementi di prova, perizie e materiali presentati da parte della procura e dal rappresentante del Banco Estado, che è la parte querelante. A questa prima udienza c'è stata una forte presenza di compagni che hanno sempre espresso solidarietà verso la compagna e la sua famiglia. I compagni solidali però hanno dovuto limitare a fare presenza fuori dal tribunale perché il giudice ha ordinato che l'udienza fosse svolta a porte chiuse. Nonostante ciò, la compagna è riuscita a sentire gli slogan urlati da compagni e all'esterno. Nei prossimi giorni verrà decisa sia la terna di giudici che la data di inizio del processo. Solidarietà e complicità con Tamara Sol, radiazione. E questo era un sunto tratto da, come quello prima sugli aggiornamenti su Juana, Natalie e Guglielmo. Erano due sunti tratti da Pubblicazione Refrattario. Si è fatto un sunto, lo diciamo molto tranquillamente, così anche per risposta a chi dice che si fanno le traduzioni male, si è fatto un sunto perché c'erano alcuni passaggi che non c'erano chiari per niente, e quindi si è deciso di dare comunque la notizia, anche perché molte cose erano degli approfondimenti, nemmeno tante cose importanti. Quindi questa era l'ultima notizia per quanto riguarda la diretta di oggi. Ricordo la prossima diretta d'azione per lunedì 1 dicembre, dove non ci sarà la lettura, ci sarà solo controinformazione e musica, ovviamente le riflessioni e le provocazioni. mentre l'appuntamento con la lettura slitterà addirittura all'altro lunedì, quando sarà disponibile il nostro lettore Marcello. Con questo è tutto, appuntamento a lunedì, stesso orario, ore 17, radiazione. Radioazione. Radioazione.org. Radioazione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Radioazione. Radioazione.org. Radioazione. Controinformazione, letture, provocazioni,